un altro amico che piano piano conosceremo. Intanto è arrivato e noi salutiamo Tommaso e salutiamo anche Lucone che è tornato anche lui dopo 2 settimane e noi riprendiamo con un altro pezzo dedicato a Lucio Dalla. Tanti che pagano il mio pranzo non ce n'è sulle panchine in piazza grande, ma quando fame di mercanti come me qui non ce n'è. Dormo sull'erba, ho molti amici intorno a me, gli innamorati in piazza grande, dei loro guai, dei loro amori tutto so, sbagliati e no. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io, a modo mio avrei bisogno di sognare anch'io. E a modo nostro festeggiamo così Lucio Dalla. Ce l'ho e la mia casa è piazza grande, a chi mi crede prendo amore, amore do quanto ne ho. Come di donne generose non ce n'è, rubo l'amore in piazza grande, e meno male che briganti come me qui non ce n'è. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io, avrei bisogno di pregare Dio, la mia vita non la cambierò mai, mai. A modo mio, quel che sono l'ho voluto io. Lenzuola bianche per coprirci non ne ho, sotto le stelle in piazza grande, e se la vita non ha sogni io li ho, io te li do. E se non ci sarà più gente come me, voglio morire in piazza grande, tra i gatti che non han padrone come me, attorno a me. In studio pronti per iniziare piano piano la nostra puntata, il nostro programma. E ringraziamo come sempre il Brancaleone, ringraziamo la cooperativa Idea Prisma, ringraziamo le signore del gas che sono qua, condividono con noi lo spazio del Brancaleone, e ringraziamo Pirate Radio, e quindi saluto tutti i fratelli che partecipano con tutti i loro programmi alla radio. E ora passo il mic a Luca. Buonasera a tutti, sono Luca e oggi parlerò delle regole del biliardo 8. Potete scegliere tra le intere o le spezzate. Le intere sono dalla 1 alla 7, le spezzate sono dalla 9 alla 15, l'ultimo da imbucare è l'8. I falli sono 5. Spieghiamo un attimino che Luca, soprattutto durante le feste di Natale, ha iniziato ad apprezzare il biliardo. Se ne è comprato uno che tiene in camera e ha iniziato a giocare. Per questo, piano piano, si sta appassionando molto al biliardo. E per cui ha detto: intanto spiego come funziona. Poi, piano piano, magari se ci casca qualcuno che viene qui al Branca, ci andiamo a fare pure una partita. Ora ripasso il mic sempre a Luca. L'ultimo da imbucare è l'8. I falli sono 5. Non si imbuca quella dell'avversario. Non si manda la bianca fuori dal biliardo e non si imbuca la bianca. Ecco qua, queste intanto sono le regole basi per iniziare l'arte del biliardo, perché comunque il biliardo è un'arte. E noi, visto che comunque è un tema ricorrente anche quando ci siamo visti tutti quanti insieme venendo qui al Branca, si è parlato di quello che è la guerra in Ucraina e noi rifiutiamo qualsiasi forma di guerra e di violenza. E ora dedichiamo un pezzo che comunque Jolly Roger dedica per dire il proprio no alla guerra. Iniziamo così, schiacciando play. A cosa serve la guerra? Diciamo la verità. Serve soltanto a vincere la gara dell'inutilità. La guerra non dice niente. Guardati intorno e ci arrivi. Perché la vincono sempre i buoni, la perdono sempre i cattivi. Ogni soldato che parte, ogni soldato del re, vorrei raggiungerlo con questo valzer, fargli cantare con me. A cosa serve la guerra? Diciamo la verità, serve soltanto a vincere la gara dell'inutilità. La guerra è sempre la stessa, ognuno la perderà e ogni soldato che muore si perde un po' di umanità. La guerra è sempre la stessa, devi partire e non sai se è una minaccia o se è una promessa, che è l'ultima guerra che fai. Come uno stupido valzer, la storia non cambierà, ma è sempre meglio cantarla ogni tanto, questa canzone che fa. A cosa serve la guerra? Diciamo la verità, serve soltanto a vincere la gara dell'inutilità. La guerra è un caso irrisolto, perché la sua soluzione è che il più debole ha sempre torto e il più forte ha sempre ragione. A cosa serve la guerra? Diciamo la verità, serve soltanto a vincere la gara dell'inutilità. E noi diciamo no alla guerra, no a qualsiasi forma di violenza. Questo è Jolly Roger e questa anche la linea di Pirate Radio. Ora ritorniamo con Luca che ci racconterà un po' alcune cosette che gli sono capitate in questa settimana. Io e Chiara martedì siamo andati a Puzzle vicino a Piazza Montegennaro. Ah, ricordiamo che Puzzle è un bene comune che appartiene, come il Brancaleone, a tutti quegli spazi che promuovono iniziative culturali. E ora anche Luca spiegherà il perché è stato a Puzzle. Siamo stati a Puzzle perché a me piace ma tanto tanto disegnare con la tempera. L'abbiamo incontrato altri operatori, altri ragazzi appartenenti al totem. Ho disegnato uno stereo con lo stes di colori Stencil. stencil con i colori giallo, blu, verde. Ho usato il pennello, non la spugnetta perché avevo paura di sporcarmi. Poi? E poi avevamo Poi voleva condividere l'idea e soprattutto la cosa che Puzzle comunque è uno spazio che si presta a queste attività. Infatti ci sono diversi laboratori, qualsiasi persona si può informare sulle pagine di tutti i social che riguardano Puzzle. E niente, ora proseguiamo sempre con Luca che finisce a dire due cose. Abbiamo fatto merenda, ho preso patate al forno, al pizzamuretto, al tufello e mi hanno regalato un ottimo supplì. Bomba! E questo è, diciamo, il racconto di Luca che è rimasto molto colpito dagli spazi del puzzle, come è rimasto colpito dagli spazi qui del Branca, quindi servirebbero più spazi dove fare attività. E ora iniziamo col pezzo scelto da Luca e va così. Abbiamo cambiato ritmi, e se, però questo è sempre Jolly Roger. Oh yeah, alright, don't stop the dancing. One more time, we're gonna celebrate. Oh yeah, alright, don't stop the dancing. One more time, we're gonna celebrate. Oh yeah, one more time. Celebration tonight. Celebrate. Don't wait too late. No, we don't stop. You can't stop. We're gonna celebrate one more time. One more time. One more time, a celebration. You know we're gonna do it all right tonight. Hey, just feel it. Music's got me feeling the need. Need, yeah. Come on, alright. We're gonna celebrate one more time. Celebrate and dance so free. Music's got me feeling so free. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time, you just got the feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, you just got the feeling. E ritorniamo in diretta. Ora è il momento di Luca e delle sue battute, e quindi iniziamo così. Lo sai qual è la città in cui si lava il tonno? Washington. Qual è il colpo per un mango? Mango io! Qual era l'altra? La terza? Qual era la terza battuta? Ah, è vero. Ma se il buio è pesto, la luce è sugo. Jerry ha la febbre? No, perché? Perché Scotty. Non ti preoccupare, tonno subito. Perfetto, queste sono le battute di Luca che ci accompagnano anche durante il weekend e non solo, a noi le ripetiamo e le ripetiamo sul pulmino mentre ritorniamo verso casa. E visto che c'è venuto a trovare Lucone, noi l'avevamo, ancora non l'abbiamo salutato in maniera dignitosa, iniziamo con un saluto così. Continuiamo a ripetere qui in studio che ogni volta che viene Lucone porta dei pezzoni, veramente tanta roba. E ritorniamo in diretta, sempre qui, questo è Jolly Roger, ora passo il mic alla nostra amica Alice. Ciao a tutti, oggi volevo parlarvi della mia passione per l'arte e la moda. Riguardo all'arte, oltre i murales, le sculture, i quadri, eccetera, la mia passione più grande sono i puzzle. In particolare quelli con tanti pezzi, ad esempio 1500 pezzi. Voglio condividere con voi e la mia tecnica. Allora, adesso Alice ci elencherà le sue modalità e la sua tecnica per i puzzle, che devo dire la sincerità, io faccio tutto tranne perché i puzzle, perché a me nervosiscono, quindi magari dopo i consigli da Alice proverò a farne qualcuno, non da 1500 pezzi, partirò in maniera molto più bassa. Vai, iniziamo con dici un po'. Allora, uno dal bordo, iniziare dal bordo. 2. Dividere i pezzi per colore. 3. Avere tanta pazienza. Ecco, proprio quella che manca a me. Quindi, detto questo, mandiamo il pezzo scelto da Alice e poi ritorniamo qui in studio. Ci vuole coraggio, paura e coraggio, sentirsi un po' assoluti, un poco di passaggio. Forse nella notte troverai la tua stella, lassù che brilla. E sembra strano, ma non è strano. Speranza pese come foglie sopra un ramo. Mentre tutto tace, tu ancora non dormi, aspetti i tuoi sogni. Ancora buio, un giro, neanche un'anima. E sarà un incubo, sarà una favola. Qualche paura resta, sembra quasi una vecchia porta che cigola. Farfalle sopra un fiore, promesse fatte altrove, che torneranno come scalavi le montagne per le strade, speravi si avverasse anche per te. Tempo perso piace e non piace. Ora siamo tornati in diretta sempre qui. Questo è Jolly Roger, come tutti i venerdì. E ripasso il mic ad Alice che voleva dirci due cosette. Volevo parlarvi della guerra tra Russia e Ucraina. Questa guerra è dal 2014 che ha un conflitto in corso. Putin sta invadendo con i carri armati e con prepotenza. due aree che appartengono all'Ucraina. Il 24 notte, tra mercoledì e giovedì alle 4:27 di notte, il presidente russo ha annunciato l'operazione militare per colpire tutti i militari ucraini che Putin vuole impedire all'Ucraina di difendersi. Gli ucraini stanno scappando, Putin è un violento e con la violenza non si risolve nulla. Noi abbiamo il nodo della parola e diciamo no alla guerra dell'Ucraina. Perfetto, noi ribadiamo il nostro no alla guerra. Se non l'avete capito, Jolly Roger continua a ripetere no alla guerra. E proseguiamo sempre con il pezzo scelto da Alice. Get him really close. Ah, super kawaii. E ritorniamo in studio. Ora è il nostro angoletto preferito. I nostri pronostici, o meglio, i pronostici di Matteo. Eccoci qua. Passo il mic a Matteo. Partire del taparo. Cari Lazio, vittoria della Lazio, Roma Lazio, parete 1-1, poi andiamo alle partite della domenica, Juventus Spezia, vittoria della Juve, Napoli-Milan, vittoria del Napoli. Perfetto, questi sono i pronostici del campionato di questa settimana e proseguiamo con la scelta musicale di Matteo. It's too hard to sleep. I got the sheets on the floor, nothing on me. And I can't take it no more, so hard you can breathe. I got one foot out the door, where are my keys? Me so E ritorniamo in diretta. Volevamo annunciare che praticamente in questi giorni ci è venuta una folle idea, visto che in tutti i programmi si parla di cibo, e il nostro chiaramente, oltre ai consigli per gli acquisti del nostro amico Luca, manca effettivamente una rubrica che parla proprio di cucina. E iniziamo oggi piano piano questa che sarà una nuova avventura di Matteo. Oggi partiamo proprio semplici in maniera molto soft, quindi passo il mic a Matteo. Rubrica di cucina, i cadetti della carbonara. Allora, abbiamo detto prima, partiamo proprio semplici, quindi si parla di carbonara. Partiamo dagli ingredienti. Uova, pecorino, guanciale, pepe, un po' d'aperitivo. Bomba, questa diciamo è l'intro. Per quanto riguarda, questi sono gli ingredienti, poi ci sarebbe da fare un discorso infinito su quali tipi di pasta, ma noi ci limitiamo solo agli ingredienti. E ora proseguiamo con la scelta musicale sempre di Matteo, un pezzo che si chiama Love No War. Bust it open for a gift. I put diamonds on your wrist. I can't buy your loving. It's never enough. I took that girl on a trip. It can't buy your love. I guess I didn't try hard enough. But we could work this like a 9-to-5. Mama told me stop play all the games. Steady throwing dollars, expect to change. But every war ends the same. Can we just make love? With a check, now I'm paying for it. You wanted nothing, nothing but love. I can't lie, I'm a mess. I'm too jealous, yes. It's so hard to trust you when I don't trust myself. I know money can't buy your love. I guess I didn't try hard enough. But we could work this like a 9-to-5. Stop play all the games. Steady throwing dollars, expecting change. But every war ends the same. Can we just make love? Siamo qua in studio, un momento di ancora presto per i saluti, però un momento un attimino di serietà in cui Matteo ci leggerà una cosa che a cui tiene in maniera particolare. Dati trovati, Moria. Allora, ci sono cose da fare ogni giorno: lavarsi, studiare, giocare, preparare la tavola a mezzogiorno, Ci sono cose da fare di notte. Chiudere gli occhi, dormire, avere giorni di dare orecchie per non sentire. Ci sono cose da non fare mai, né di né di giorno né di notte, né per mare né per vera, per da quello. Perfetto, questo continuiamo a ripetere, è il nostro no alla guerra e proseguiamo con un altro pezzo. Of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much, but it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was, but it's fun to fantasize. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I'm born, so I'm taking my time on my ride. Taking my time on my ride. That's easy to say. We have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But there don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man, but literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home. E questo è un pezzo che dedico de cuore a tutti gli amici e i fratelli di Pirate Radio. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, I'm born, so taking my time on my ride. Oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Torniamo in diretta, abbiamo salutato il Lugone che ci è venuto a trovare, ora passo il mic a un nuovo, a una nuova entry del gruppo. Passo direttamente a lui il mic, così si presenta e ci dirà due cosette giusto per oggi, poi dalla settimana prossima entrerà a bomba nel programma di Jolly Roger. Salve a tutti, il mio nome è Tommaso. E sì, dalla prossima volta entrerò in questo bellissimo, in questa bellissima radio. E stavo già pensando a dei miei programmi, sulle mie passioni, e come per esempio storia e cucina. E ciao a tutti. Perfetto, questo è Tommaso, piano piano lo conosceremo e ora proseguiamo con un pezzo che ha consigliato Lucone e io vado solo di play. Dope Boy. Sta de Cristo, controllo bene il pacco prima dell'acquisto. Esco fresco da una barberia, bascio tutti sulle guance in zona mia. Ho i pacchi della biancheria, dici secco faccio un altro album. Che ho i ragazzi per la strada non fa un cazzo. Mo te li mando, sei un esempio per sti teppisti. Di armi fio che se siamo visti, e firma me sti quattro dischi. Dici sai bro, che sei un top boy. Ami ragazza che se muore per i pezzi tuoi. Che sei tutti noi, sei la nostra voce. Ho la maglietta col tuo nome al centro della croce. C'ho bisogno di pomparmi un po' di merda nuova. Che i tuoi album sono culto ma li so a memoria. Che ci serve questa merda per sopravvivere. C'hai salvato dalla merda con queste rime. Saltano la fila questi dope boys. Tutti vogliono una foto con il dope boy. Per la strada sempre in giro questi dope boys. Per sto gioco do la vita muoio dope boy. Nel locale la più figa vuole un dope boy. Sono in corsa per sti soldi sogno il top boy. In questa merda fotti il dope boy. Sai che c'è bro, che non ci ho pensato. Mi fa male se mi dicono te ci hai lasciato. Sono in corsa per il denaro, come la maggior parte degli stronzi per Milano. Sai che fame, mi piacerebbe fosse tutto uguale a quando me ne sono andato. Ma un motivo c'era se me ne sono nato. A casa ho controllato, tutto regolare. Tutti bravi, solo nuovi avvisi giudiziari. A Roma, corre il sangue mio. E se non me le fanno l'altri al giro ancora becchi qualche tag mio. Corro ancora con gli stronzi che ho incontrato nel 97. La Madonna di Sempione ci protegge. Saltano la fila questi dope boys. Tutti vogliono una foto con il dope boy. Per la strada sempre in giro questi dope boys. Per sto gioco do la vita muoio dope boy. Nel locale la più figa vuole un dope boy. Sono in corsa per sti soldi sogno il top boy. In questa merda fotti il dope boy. Torniamo in diretta dal Branca, sono gli ultimi minuti per noi, e visto che comunque sempre il tema della puntata è stato il nostro no alla guerra, volevamo dedicare un pezzo che proprio è contro la guerra ma contro ogni resistenza. Una mattina mi sono alzato. Oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. Se io muoio da partigiano, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir e seppellire lassù in montagna. Oh vela ciao, vela ciao, vela ciao. Ciao, ciao, e seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fior. Eva! Tutte le genti che passeranno. Oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno mi diranno che bel fiore. E questo fiore è ciao ciao ciao per il fiore del partigiano morto per la libertà. E ritorniamo in diretta. Questo era il nostro, continua a essere il nostro modo per dire no alla guerra. E ora siamo prossimi ai saluti, ma visto che comunque si parla di no guerra, ma soprattutto di amore, proseguiamo con un altro pezzo, il penultimo pezzo per noi prima dei saluti. Tanto amore qui a Jolly Roger. Eccoci qua, siamo arrivati a quella che è la chiusura della nostra puntata. Vi saluto e vi faccio salutare da tutti quanti. Ci si risente settimana prossima, tutti venerdì, come sempre dalle 17 alle 18. Questo è Jolly Roger, sempre dal Branca. Un abbraccio, un saluto a tutti e a tutte. Ciao a tutti! Ciao! Ciao! Ciao! Buon weekend a tutti e a tutte! Divergente, dipendente, lo sei diventato, lo sei stato sempre. Come se il passato non fosse presente, come se quel lato non mi appartenesse. Dire sono instabile è più facile, un altro modo per non sentirmi più responsabile. Fuori sono cool come Antartide, se mi sciolgo piango finché sono tutto lacrime. Sto sull'orlo di un crollo, so che non lo controllo. Uno di noi è di troppo, come un sogno in un sogno. Vero borderline con gli eccessi, meno Mr. Hyde e più Jackie. Non si odia mai davvero se non se stessi. E il tempo passa e non mi manchi. Avresti dovuto ammazzarmi e non ascolto più quello che dici. Anche se piace lo gridi, come serpenti a solai inganni uccidi. Siamo nati per essere nemici e non mi manchi e so che volevi riprovarci e ti attacchi come un vampiro fino a togliermi il respiro. Sono il contrario di te. con il tipo con la paranoia. Il cattivo dentro la mia stessa storia. Che ha bisogno sempre di nemici in zona. Pure fa la guerra con se stesso quando non li trova. Che deve cacciarsi in un guaio solo per capire che è un guaio. E che mette ciò che è di più caro in palio. Che non sa tenere l'emozione al guinzaglio. Sono il giocattolo rotto con cui gioca il mio doppio. Uno di noi è di troppo, come un sogno in un sogno. Tregua col nemico, cerco l'equilibrio. Ma se non recido sono recidivo. Ora devo uccidermi o non sopravvivo. Un'altra volta, un altro ciclo. C'è un antidoto, spingi, sono in bilico. C'è un antidoto, spingi, sono in bilico. C'è un antidoto, spingi e sono libero. Sei mai stato libero? Forse sono libero. C'è un...